Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Si chiama Sport Edu ed è un progetto di ricerca europeo partito pochi mesi fa e dedicato agli impianti sportivi. Pensate che fanno circa l'8% del patrimonio edilizio europeo, una cifra abbastanza sorprendente. Parliamo di 1,5 milioni circa di edifici. E che edifici viene da aggiungere? Perché basta pensare all'illuminazione degli stadi, per esempio, ma anche a tutte le palestre disseminate più o meno in ogni comune italiano. Pensate solo all'altezza dei soffitti, a che volume d'aria bisogna riscaldare, spesso inutilmente, dato che nessuno di solito gioca a 10 metri d'altezza. Insomma, si tratta di edifici molto energivori e non a caso quell'8% di volumetria si traduce in un 10% dei consumi su tutto il comparto immobiliare. Si capisce quindi che riuscire a intervenire organicamente su questa nicchia avrebbe effetti significativi su grande scala, ed è precisamente quello che intende fare Sport Edu. Avremo due ospiti questa sera con cui parlarne: Thomas Messervi da Polonia SPA, è la società di consulenza ingegneristica che coordinerà il progetto di ricerca. Buonasera Messervi. Buonasera a tutti, grazie. L'altro ospite è Pierluigi Marzorati, che è ben noto in quanto ex giocatore della nazionale di basket, ma oggi è in veste di comproprietario di Staring, uno studio di ingegneria e architettura verde specializzato in efficienza energetica. Buonasera Marzorati. Buonasera a tutti voi. Ma lei è ingegnere? Sì. Ma allora lei quando tirava canestro intanto dava un'occhiata alle travi del palazzetto, cosa teneva un occhio di qua e un occhio di là? Più o meno, facendo momenti diversi per evitare di confondere le cose, sbagliare i canestri e sbagliare le misure delle travi. Va bene, allora Marzorati, iniziamo proprio da lei, che tra l'altro insomma avrà anche un po' un ruolo di portavoce verso la comunità sportiva di tutto questo progetto. Quanto puntate a risparmiare? Beh, sicuramente credo dai dati che noi abbiamo impostato attraverso questo sistema di gestione intelligente integrato sul controllo dell'energia, noi pensiamo di riuscire ad arrivare addirittura anche a un 30% di risparmio energetico. Ecco, e appunto mi stava già in qualche modo accennando, come dire, al tipo di intervento che avete immaginato. Beh, innanzitutto abbiamo preso come tre diciamo centri campioni, uno in Italia, uno in Portogallo e uno in Spagna, per andare a monitorare quelli che sono i consumi energetici, sia elettrici che termici, in questo momento qua, attraverso appunto un controllo sui consumi. È chiaro che dovremo andare a verificare anche i parametri di riferimento secondo le normative per quello che è la temperatura, l'illuminazione, la ventilazione e quant'altro, e poi capire come intervenire in una fase successiva per migliorare attraverso sicuramente un processo di isolamento delle pareti piuttosto che certo, dei soffitti, per un contenimento di costi. E il secondo punto invece è quello magari di andare a produrre energie che provengano appunto da fonti rinnovabili. Quindi diciamo che comunque in una prima fase soprattutto si tratta di capire bene qual è lo stato e quali sono anche i problemi ricorrenti, immagino, in queste strutture. È così? Esatto. È così. Infatti, in funzione di quello che già esiste, noi dovremmo andare a fare un controllo dei consumi attraverso dei rilievi sulle varie strutture. Dunque Messervi, avete proprio immaginato, se non sbaglio, una struttura in quattro moduli di questo intervento. Quali sono questi quattro? Molto sinteticamente, se ce li può spiegare. Sì, ancora buonasera. E primo, devo dire, sono americano e me la cavo con la lingua, ma sto imparando ancora. Va bene, fa folklore. Allora, facciamo quattro moduli basati su soluzioni ICT, che vuol dire informazione e comunicazione technology. Informatica, insomma. Sì, informatica, che includono internet, telefoni, cellulari, sistemi GPS, sensori, eccetera, eccetera. Ok. Importante dire che questo approach è scalabile. È scalabile, ok. Grazie, è modulare. Allora, possiamo usare o inventare una soluzione per ogni struttura. E anche dobbiamo dire che questo soggetto in bolletta elettrica non è molto divertente, un po' noioso, diciamo, no? Mm-hmm. E per questo ci sono tante persone che non capiscono il loro bolletta, forse hanno un contratto spogliato e pagano per le cose che non devono pagare. E questo è il nostro primo modulo, è chiamato Sporty How. Okay. Misurazione intelligente. E con questo modulo darà la possibilità a proprietari e gestori degli impianti di capire in che modo l'energia è consumata. Perfetto. In ogni istante all'interno della struttura. Della struttura sportiva. Modulo numero 2? È chiamato Sporty When, controllo integrato. Renderà possibile effettuare un controllo integrato della struttura per l'illuminazione, il riscaldamento, diventa possibile così gestire energeticamente la struttura di un unico punto di controllo. Modulo 3? È chiamato Y, ottimizzazione. Se c'è la possibilità di fare controllo, allora c'è questa possibilità per fare ottimizzazione. Allora possiamo prendere decisioni più intelligenti. D'accordo, quindi una volta misurato e una volta acquisita la capacità di controllo, poi si può controllare effettivamente secondo questa logica di ottimizzazione. E infine il quarto modulo, che è il modulo WARE, gestione multistruttura. Che cosa vuol dire? Esatto. Per esempio, abbiamo un partner che lui ha 17 strutture, 17 piante sportive. Allora, per lui, questo modulo fornirà un strumento di gestione multistrutture in grado di analizzare e mostrare in contemporanei domande, consumo, produzione e scambio dell'energia per diversi impianti. Quindi, insomma, un modulo dedicato alla gestione delle strutture sportive complesse. Marzorati? Cioè, ci sono dei vari... strutture dedicate all'attività sportiva, che sono appunto la piscina, la palestra per l'attività di squadra, il centro fitness, poi c'è tutta la parte strutture di supporto, dove ci sono i servizi, gli spogliatoi, gli uffici, che devono essere compartimentati e gestiti con valori, sia di temperatura, di umidità e di illuminazione, ovviamente diversi rispetto a quello dell'attività. Ecco, una cosa importante che forse non abbiamo detto è che voi ragionerete su interventi che si ripagano in 5 anni o anche meno. È una specie di criterio che vi siete dati, è giusto? Esatto, sì, credo che tra 4-5 anni è prevedibile il rientro rispetto all'investimento. Grazie Thomas Messervi, grazie Pierluigi Marzorati. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie. Bene, questo è tutto, l'appuntamento è per domani, stessa ora, stessa radio. Buona serata.